Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi partiamo da fatti di cronaca recenti per affrontare dei temi di grande attualità. Il primo è quello dei partiti e vi segnalo un grande intellettuale che fustigò la partitocrazia che era, quando lui scriveva, appena agli inizi, cioè Ernesto Rossi, che visse fra il 1897 e il 1967. Di Rossi esce Contro l'industria dei partiti, pubblicato da Chiare Lettere, 100 pagine, 7 euro. E il libro raccoglie vari scritti che Rossi aveva pubblicato sul settimanale liberale Il Mondo tra il 1950 e il 1952. Le sue sono righe di drammatica attualità, come sottolinea Paolo Flores d'Arcais, che prendono spunto dalla riflessione sul tema di un altro studioso liberale, Arrigo Cajumi, che aveva pubblicato sulla Stampa. E da qui la denuncia di come il sistema dei partiti stesse diventando sempre più gigantesco e onnivoro. E sentite dal libro di Rossi la fotografia di una situazione che da allora semmai è peggiorata. Nelle democrazie moderne, il successo dei partiti politici dipende essenzialmente dall'efficienza della loro macchina. E l'efficienza della macchina dipende essenzialmente dai quattrini disponibili. La stampa dei giornali, l'affitto dei locali, gli stipendi degli impiegati, la fissione dei manifesti, l'organizzazione dei congressi, le automobili, i viaggi, la posta, inghiottono parecchi milioni ogni mese, anche quando si tratta di tenere in piedi il più piccolo partitino. Inghiottono decine e decine di milioni per i maggiori partiti di massa. E queste spese devono essere centuplicate durante le campagne elettorali. Da dove saltano fuori tutti questi quattrini? Domanda Cajumi. I proventi dai tesseramenti, dalle pubbliche sottoscrizioni, dagli abbonamenti ai giornali, possono essere solo il cicchetto di benzina per mettere in marcia il motore. E il resto? Bisogna cercare la chiave dell'enigma, scrive Cajumi, considerando gli interessi difesi dai singoli partiti. Sono completamente d'accordo con queste affermazioni di Cajumi. Un altro esponente della stessa Italia laica e democratica è Riccardo Bauer, di cui pure esce una raccolta di scritti, Pesci in faccia, verità che scottano, pubblicato da Raccolta, 256 pagine, 15 euro. Questi sono scritti inediti dell'esponente fascista molto legato all'esperienza della Società Umanitaria di Milano. Si parla di tanti temi dell'Italia che rinasce dopo il fascismo, magari, nota Sergio Romano nella sua prefazione, con una punta da parte dell'autore di eccessivo pessimismo, giustificato anche dal suo carattere, scrive infatti Romano. Così era Bauer, troppo franco per attenuare i suoi giudizi, troppo fedele ai suoi ideali per accontentarsi di risultati parziali, di soluzioni accomodanti. Egli non aveva obblighi di lealtà se non con la propria coscienza. E in effetti nelle sue pagine ci sono molti temi di grandissima attualità. Per esempio si parla nel 1951 dei partiti e scrive Bauer in un articolo: la magistratura ha rivendicato la propria piena autonomia e pare questa intenda come diritto a sottrarsi ad ogni controllo e ad ogni critica. Ma aggiunge, quando si tratta di magistratura e polizia non v'è tempo da perdere. V'è un imperativo al quale non si può negare risposta senza negare la possibilità stessa della ordinata vita collettiva e della democrazia, che è anzitutto garanzia di giustizia illuminata e per tutti uguale. L'altro tema che vi segnalo è quello della Fiat. Della Fiat, in particolare dell'accordo con la Chrysler, avevamo già parlato in questa rubrica segnalando il libro di Giuseppe Berta, Fiat Chrysler e la deriva dell'Italia industriale, pubblicato dal Mulino, 142 pagine, 14 euro. Ma vista l'attualità, ho voluto attualizzare l'intervista che avevamo fatto con Giuseppe Berta per fargli alcune domande su come vede la situazione oggi. Buongiorno a Giuseppe Berta. Buongiorno. Allora, Giuseppe Berta, che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Quali sarebbero gli aggiornamenti da fare al libro su Fiat Chrysler? Ma se io dovessi scriverlo oggi, certamente cambierei alcune cose. Innanzitutto cambierei forse il tono, che era più ottimistico lo scorso anno di quanto lo sia quest'anno. Nel senso che io pensavo allora che certamente Fiat Chrysler fosse un gruppo policentrico e globale, ma che potesse mantenere un forte presidio in Italia e in Europa, cioè in Italia per presidiare l'Europa. Ecco, le cose stanno un pochino mutando, perché per esempio se leggo il Wall Street Journal di oggi, leggo una forte invocazione a un taglio della capacità produttiva in Italia, e si dice per esempio Goldman Sachs propone di chiudere lo stabilimento di Mirafiori, che oggi è utilizzato in una modestissima percentuale rispetto al suo potenziale. Cioè sono molto peggiorate le prospettive dell'industria automobilistica in Europa, ma soprattutto della Fiat in Italia e in Europa. Ecco, lei nel suo libro parla del quadro complessivo anche del sistema industriale italiano, che anch'esso è stato sottoposto in questi ultimi mesi a forti pressioni. Mi sembra anche che rispetto alla sua analisi iniziale sia cambiato il ruolo che stanno svolgendo, che possono svolgere i grandi attori sociali, i sindacati, la Confindustria. I sindacati sono divisi, la Confindustria, lei parlava di dilemmi, oggi c'è una nuova leadership. Ecco, come li giudica questi protagonisti alla luce di quello che sta succedendo? Sembra che l'Italia industriale di oggi sia in bilico. Si è in bilico tra un passato ingombrante e un incerto futuro. Mi spiego meglio, gli attori collettivi che lei citava sono attori che parlano dell'Italia industriale del Novecento, voglio dire, oggi parliamo dell'Ilva, oggi parliamo degli stabilimenti Fiat, in qualche modo parliamo del modello industriale novecentesco. Oggi questo modello industriale è sottoposto a fortissime tensioni e molti segnali ci fanno pensare che il suo ridimensionamento sia inevitabile. Noi andiamo verso un ridimensionamento di questi grandi apparati dell'industria automobilistica, dell'industria siderurgica e così via. Ecco, e che cosa possiamo fare di diverso? Oggi, devo dire, io sono stato abbastanza convinto dagli argomenti di un bel libro che mi auguro venga presto tradotto in italiano, che è il libro di Peter Marsh del Financial Times, che ha scritto questo libro che chiama The New Industrial Revolution, e lui dice, ma dobbiamo pensare a una terza rivoluzione industriale, che è mutata, che ha i suoi capisaldi in una nuova tecnologia, anche in nuove dimensioni. Penso, faccio un esempio, di realtà e attività che sono già operative nell'area dove io vivo, quella di Torino, le stampanti tridimensionali. Ecco, noi andiamo verso una frontiera industriale che è grandemente in mutamento rispetto a quella del Novecento. Probabilmente l'Italia deve fare un salto di qualità in questa direzione. Peter Marsh ci dice che l'Italia già si situa almeno in parte, interstizialmente, lungo questa nuova frontiera industriale. Occorre la consapevolezza e direi io soprattutto la determinazione di girare pagina rispetto al Novecento. E paradossalmente però questa svolta dovrebbe favorire il sistema imprenditoriale italiano, che è basato sull'intraprendenza dei piccoli imprenditori. Esattamente. Allora, noi andiamo verso una situazione in cui i mercati saranno soltanto di nicchia, cioè il mercato di massa, argomenta convincentemente Marsh, è destinato a scomparire. Saranno tanti, infiniti mercati di nicchia basati sull'idea della personalizzazione del prodotto. Noi su questa dimensione ci siamo già, nel senso che noi abbiamo la flessibilità operativa, la grande agilità dell'impresa, dobbiamo aumentare il nostro potenziale tecnologico, dobbiamo imparare a fare meglio quello che già stiamo facendo e dobbiamo, come dire, orientarci con decisione verso questo nuovo modello, probabilmente pensando che quello che ci lasciamo alle spalle va gestito. Certo, io penso alle migliaia e migliaia di lavoratori di Taranto, bisognerà gestire quella transizione, ma non possiamo pensare di congelare una dimensione produttiva che è ormai superata. Ecco, e secondo lei l'Italia cosa dovrebbe fare per la Fiat? Quando si parla spesso, e devo dire a sproposito, di politica industriale, io non credo a una politica industriale dirigistica che dice quali obiettivi, quali settori. Io penso però che sarebbe importante avere una visione condivisa del futuro, cioè quali sono le forze motrici del cambiamento economico e produttivo nel mondo. E allora, se abbiamo questa convinzione, dobbiamo, secondo me, fare investire soprattutto in quelle condizioni condizioni di sistema che ci possono aiutare in questo sforzo. Per esempio, vedevo che il ministro Passera parlava delle start-up, di potenziare le start-up. Ecco, bisogna andare lì, bisogna aiutare la nuova imprenditorialità, bisogna favorire i giovani e quelli che hanno una capacità tecnologica alle spalle e probabilmente non lasciarci soltanto impressionare, come dire, dai grandi mammut industriali del passato, che certamente hanno un peso e esercitano anche un condizionamento sociale, ma non possiamo pensare che quella realtà sarà il nostro futuro, anche perché, devo dire, Marchiani ha detto chiaramente, il futuro sarà con meno automobili in Italia. L'Economist ha scritto convincentemente qualche tempo fa che il prodotto automobile sta cambiando, noi usiamo meno l'automobile, l'automobile in Occidente è un prodotto meno simbolico del passato. E allora questo dovrebbe spingerci a una visione più realistica e dire: vediamo quali sono le nuove frontiere dell'industria e, visto che già come italiani ci siamo, ci stiamo andando un po' spontaneamente, vediamo di concentrare i nostri sforzi in questa direzione. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso partiamo per una riscoperta dell'Italia, una riscoperta da prospettive e punti di vista insoliti, e vi segnalo perciò innanzitutto il libro di Corrado Augias, I segreti d'Italia, storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione, pubblicato da Rizzoli, 298 pagine, 19 euro. I segreti del titolo non si riferiscono a luoghi nascosti o misteriosi del nostro paese, né a pagine oscure della storia nazionale. Piuttosto questa parola vuole richiamare la complessità dell'immagine dell'Italia che, scrive Augias, fa sì che spesso gli italiani stessi non sappiano bene giudicarsi, non abbiano ben chiaro, come scrive l'autore, il loro possibile ruolo. E allora, continua Augias, questo libro racconta dei luoghi, dei personaggi, tipi umani, momenti reali o immaginati, presi dalle cronache e dalla letteratura. Si parla dunque degli italiani, come si vedono essi stessi e come sono visti dagli altri, e poi ci sono nel libro alcune tappe che riguardano alcune città capitali nello sviluppo dell'immagine complessiva dell'Italia: Roma con Leopardi, Palermo il Mezzogiorno, l'Umbria e Assisi, Parma con la Duchessa, Milano colta negli anni della ricostruzione postbellica, il ghetto di Venezia. Sentiamo dal libro queste righe che richiamano la Roma descritta da D'Annunzio nel Piacere. Dietro i protagonisti c'è Roma, o meglio quella sua parte che fa centro su Piazza di Spagna e Via Sistina, tra la Trinità dei Monti e il Tritone. Poi da lì, attraverso Via dei Condotti e il Babuino, si estende alle chiese secentesche, il famoso barocco della Controriforma, piazze e piazzette, fontane ed edicole papali. La sua non è la Roma di Chateaubriand, non è quella di Stendhal né di Goethe, piuttosto la Roma del neonato Regno d'Italia, la più adatta a far da sfondo ai suoi anni. I ricevimenti, le vendite all'asta, la caccia alla volpe, le strade, le botteghe, i concerti, le accademie di scherma, il brillare argenteo della corte, le piume che ornano i grandi cappelli delle dame tiberine formano la massa corale del suo grande balletto. Questa Roma, lo scrittore sa restituirla con raffinata abilità paesaggistica. Offre una serie di inquadrature a volte sontuose come oli, altre con le liquide trasparenze dell'acquarello. In una cronaca del luglio 1887 scrive: «Avete mai contemplato la città in un meriggio di luglio dall'ombra dei lecci che stanno come una rigida muraglia verde innanzi alla Villa Medici? Quando mai Roma è più solenne e più sacra? Quando mai ella suscita più forte nell'animo il sentimento della divinità? Il viale è deserto. I vasti alberi immobili proteggono la fontana e si specchiano nel bacino, dove l'acqua, per tale ombra, è cupa e molle come il velluto». Perfino Benedetto Croce, che pure lo bollò come un dilettante di sensazioni, dilettante ma artista, aggiungeva, deve ammettere che D'Annunzio non solo vede con straordinaria lucidezza, ma rappresenta ciò che vede in modo perfetto. Nel suo libro Augias insiste sulle città italiane, che sono il più grande patrimonio in fondo del nostro paese. E un libro insolito sulle città italiane è Metropolis, viaggio sotterraneo nella storia segreta delle città d'Italia. L'autore Hans Tuzzi, saggista e giallista, il libro è pubblicato da Rizzoli, 306 pagine, 17,50 euro. Qui i misteri e il viaggio sotterraneo si riferiscono alle linee delle metropolitane italiane, che sono presenti peraltro soltanto in 6 città: Napoli, Milano, Roma, Torino, Genova e Catania, ma qua si parla solo delle prime 4. E le tappe del libro sono scandite da alcune fermate che danno spunto all'autore per descrivere l'area circostante e raccontare storie, aneddoti e personaggi. un'insolita guida è quella dedicata poi a Lucca nella serie delle guide città d'autore, cioè affidate a scrittori e giornalisti, in questo caso Diego Casali, giornalista della Nazione, che parla appunto di Lucca, pubblicato da FQ, 12 euro per 238 pagine, nelle quali troviamo segnalazioni artistiche e turistiche con lo spirito di far scoprire anche attraverso le immagini momenti e aspetti meno noti della città. Un libro di viaggi insolito e tenerissimo, ma qui andiamo fuori dall'Italia, è quello di Giulio Cortasar e Carol Dallop, Gli autonauti della Cosmostrada, pubblicato da Einaudi, 366 pagine, 21 euro, tradotto da Paola Tomasinelli e con le illustrazioni di Stéphane Hébert. Questa è la cronaca di un'impresa apparentemente demenziale, di qua il sottotitolo, un viaggio atemporale Parigi-Marsiglia. L'impresa è quella di percorrere il tragitto in autostrada tra le due città, che sono circa 800 km, fermandosi ogni giorno in due aree di sosta a bordo di un vecchio pulmino nel quale poi gli autori trascorreranno le notti. L'impresa dura quasi un mese e si rivela però tutt'altro che demenziale. Il grande scrittore, ricordiamo che era argentino di nascita e che è scomparso nel 1984, con la moglie americana scrivono, fanno fotografie e con questo materiale ci forniscono non un diario di viaggio, pur ricco di immagini, schizzi e piante, ma una descrizione di un modo diverso di porsi rispetto al mondo. In breve, i due sono fuori dal mondo, arrivano nelle aree di sosta, le giudicano, si sistemano, cominciano a scrivere, a leggere, ad ascoltare musica, a mangiare, a bere, addirittura a ricevere gli amici che in tappe prefissate li vengono a trovare e li riforniscono di viveri freschi. È un'avventura che spiega il gioco di parole del titolo, perché il titolo inizialmente avrebbe dovuto essere I cosmonauti dell'autostrada. Sentite dal libro queste righe che dimostrano come l'avventura in autostrada diventi una metafora della vita stessa, alla quale assicuro una nuova inedita dimensione. L'autostrada è un fiume rosa, sul quale fluttua una bruma violetta appena percettibile. E le auto, i camion, passano come fantasmi. Il loro fracasso attenuato dalla notte, dalla nebbia che addolcisce tutto, dalla distanza che tra loro e noi delimita i mondi in cui viviamo, come se non fossimo né potessimo essere viaggiatori di uno stesso percorso. Strano silenzio, pieno di mormori, rotto di tanto in tanto da un camion che parte, dai freni cigolanti di un treno, silenzio fatto di suoni e rumori, e la cui esistenza, a cui partecipa ogni nostro gesto, ci conferma che in qualche modo siamo lì dove crediamo di essere, che l'obiettivo del viaggio è stato raggiunto, e ci resta solo da dirci, con quel sorriso che forse senza saperlo significa che farai un altro passo avanti e mi ritroverò di nuovo tra le tue braccia, che quell'obiettivo, che non è più fisso delle aree di sosta, del mondo o delle stelle, lo stiamo vivendo con sempre più naturalezza. L'autostrada non è una linea retta, ma una spirale. Anche le nostre due vite sono spirali. E la vertigine di quelle linee che si incrociano, nel mosaico dei cerchi e delle tangenti, delle parallele e delle intersezioni. È solo una decisione arbitraria. L'abbiamo presa prima di affrontare questo percorso, senza preoccuparci della sua importanza. Ci farà uscire un giorno, per fortuna ancora lontano, dal gioco e dallo spazio che le definiscono. E il libro è anche un grande libro d'amore. Carol morrà pochi mesi dopo, giovanissima, Cortasar due anni dopo, forse sono già malati all'epoca del loro viaggio, e questo viaggio in autostrada, conclude l'autore ricordando la moglie, continua nel nostro drago, che è il pulmino che li ha ospitati, continua per sempre nella nostra autostrada. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo festeggiato qualche giorno fa San Francesco e allora vi segnalo il libro di San Francesco d'Assisi, Preghiera semplice, pubblicato dalle Paoline, con le illustrazioni di Giuliano Ferri, 12,90 euro, nella quale i più piccoli potranno appunto accostarsi alla figura di questo grande santo che amava la natura. Ringrazio Luca Cremonese, redazione, Fabio Cantadori in regia. Prima di salutarci vi invito ad ascoltare la trasmissione di domenica prossima. Ci sarà una piccola sorpresa legata alla mostra di Picasso in corso a Milano. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona domenica a tutti, appuntamento domenica prossima.